Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 20. Open your eyes. Il pianeta osservava in universo visione le immagini mosse di un ambiente tropicale. Strisce di terra rossa scorrevano veloci sullo schermo, facendo intravedere fugacemente lastre di roccia grigio-verdi. Un debolissimo ronzio di sottofondo, quasi una vibrazione della mente, rivelava che il Devil era in funzione. Era ormai il tramonto e i colori della natura, non abbaglianti come di giorno, avevano guadagnato in intensità e sfumature. Suoni di passi sul terreno e richiami di uccelli erano tutto quello che si udiva. Drago camminava verso l'ingresso del tempio con la telecamera in mano, riprendendo il paesaggio. La sua voce fuori campo iniziò in tono distaccato. La riunione di oggi qui è per mostrarvi quanto è magnifico questo pianeta e quanto siete magnifici anche voi quando vi ci mettete con impegno, anche se non capita spesso, devo dire. Puntò l'obiettivo sul lussureggiante intrico di piante, scorrendo il panorama di foglie che lo circondava. Vedete? I mille colori del verde della natura, la natura viva, il blu del cielo e le prime stelle del tramonto. Sentite? Ascoltate la voce del vento fra le foglie. Sentite le voci degli abitanti di questo posto? Quelli che volano, quelli che strisciano, saltano o corrono. La musica che ha ispirato i più grandi viene da qui. Questa è l'opera della natura, l'armonia della vita. Inquadrò le spigolose torri del tempio. I potenti riflettori le illuminavano di un bianco abbaccinante che formava contrasti taglienti come lame con le zone in ombra, per poi perdersi spettrale nel cielo. Una suggestione mistica emanava da quelle rovine. Era l'equivalente tropicale di San Pietro. Pur essendo ormai in rovina da secoli, vi regnava un'atmosfera di pace e spiritualità. E questa è l'opera dell'uomo. Non è bellissima? Perfettamente armonizzata con l'ambiente. Un giardino segreto nascosto in un giardino incantato. Mille anni fa eravate capaci di queste cose. La telecamera indugiò sui profili intarsiati delle torri, sui bassorilievi che raffiguravano scene epiche, poi, calando verso il basso lungo una ripida scalinata, arrivò fino alla balaustra forma della divinità serpente che gli antichi costruttori Khmer chiamavano Naga e la seguì fino a centrare la ripida scalinata che portava alla torre più alta. L'inquadratura fece una capriola orizzontale e ne sbucò fuori il viso di Drago Ocelot, che da sotto il cappellaccio impolverato fece un'espressione disgustata. Ora, guardate fuori dalla vostra finestra. Quello che vedrà la maggior parte di voi sarà molto diverso. Dove siete finiti? Dove vi hanno portato? Cosa ci fate fra quelle mura grigie di strade sporche, in quell'aria irrespirabile? Tornò ad inquadrare i bassorilievi di persone danzanti e abbassò il tono della voce. Sembrava quasi che parlasse da solo. Prigionieri delle vostre abitazioni, compressi nelle vostre automobili. La telecamera trasmetteva le raffigurazioni sorridenti degli antichi dei. Erano sorrisi divini, serafici e ironici. Dopo una pausa, la voce di Drago cambiò intonazione e affermò perentoria. Il nuovo mondo è cominciato, ma solo chi riesce a vederlo nella propria mente riuscirà un giorno ad abitarlo. La riunione di oggi ha lo scopo di stimolarvi ad aprire gli occhi alla bellezza e portarla avanti nelle vostre vite. Detto questo, Drago appoggiò su un muretto la telecamera. inquadrò il piazzale delimitato da mura di pietra decorate con formelle di ninfe danzanti. In fondo allo spiazzo i blocchi di arenaria davano forma a una porta buia incorniciata da rampicanti. Allargò l'inquadratura fino a comprendere nell'immagine la luna piena sopra la torre centrale, nel cielo ormai color cobalto e punteggiato di stelle. Lasciò lì la telecamera, camminò fino al centro dell'inquadratura e disse: «Ogni anno, questo stesso giorno, spegnerete tutte le luci di ogni città, così da poter vedere le stelle, e guardando il cielo ricordarvi che noi nuotiamo nella Via Lattea. Adesso, mentre noi e la Luna proseguiamo nel nostro cammino, meditiamo su quello che vi ho detto». Volse le spalle alla telecamera, si accovacciò su una pietra che affiorava dall'erba, si tolse il cappello e assunse la posizione del loto. Mirko guardava la funzione sul monitor, ridacchiando per quello che gli sembrava una situazione comica. La scena gli ricordava il periodo mistico dei Beatles, con l'immancabile esortazione a meditare ed espandere la coscienza, meglio ancora se con l'aiuto di musica e psicoattivi accessori psichedelici. Però riconobbe che era stato un bel sermone, breve ed efficace. Avrebbe voluto vedere le reazioni del loro mondo a quella riunione, anche se era facile immaginare che sarebbero rimasti tutti devotamente muti davanti agli schermi o incollati alle radio fino alla fine. E gli amici della Resi? Così improvvisamente lontani nel tempo e nello spazio. Sembrava trascorso un mese da quando era stato in città e invece erano passati solo pochi giorni. Tutto aveva assunto all'improvviso una dimensione planetaria nella quale il suo passato era grande come San Marino o forse il Vaticano. Riviera si sentiva ancora più piccolo, come una noce di cocco alla deriva nell'oceano, incapace di capire quale fosse la rotta giusta da seguire. Era cioè nel suo stato naturale. L'atmosfera mistica del posto però lo contagiò. Tutto emanava un senso di eternità. Lo faceva sentire parte di un disegno più grande di loro. Gli sembrava di udire dei flauti lontani, anche se forse erano solo versi di animali. Forse tutto stava andando come doveva andare. Nulla è perfetto, si sa. Seguendo i flauti nella sua testa, Mirko raggiunse Drago, che era ancora immobile a occhi chiusi, e prese posto accanto a lui nella stessa posizione del loto. Se Ocelot si era accorto di lui, non ne diede alcun segno. Nessuno dei due parlò fino a quando l'alba tinse d'oro le mura del tempio. Allora Drago aprì gli occhi. Un sorriso gli aleggiava intorno alle palpebre. Allungò lentamente le braccia, estrasse da una tasca del giubbotto d'esploratore un telecomando, si voltò, prese la mira e spense l'occhietto rosso della telecamera. Poi, con calma, guardò Mirko e disse: «Propongo qualche giorno di mare tropicale. Benvenuto in paradiso, socio. Conosco un posticino qui vicino che fa proprio per noi». E sembrava davvero il paradiso. Bianche strisce di fine sabbia che si infilavano nel mare turchese sotto un verde di lussureggiante vegetazione. E silenzio. Tanto silenzio. Noci di cocco punteggiavano la sabbia candida di gobbe pelose. Solo il rumore delle onde riempiva gli spazi vuoti tra i respiri. In quel posto era facile immaginarsi la terra milioni di anni prima, quando era ancora vergine, e captare arcaiche sensazioni ancestrali. Le tinte del mare avevano l'espressione più assoluta del blu che si fosse mai vista. Si percepiva dalle sfumature di colore che il mare stesso era vivo nelle sue correnti più profonde. Il suo ansito era ben udibile. I giorni erano passati in fretta, sebbene il tempo avesse avuto il lento ritmo della risacca. Seduti su dei tronchi levigati davanti a un tavolo di legno in riva all'oceano indiano, al riparo di un ombrellone rosso, pranzavano con i semplici e naturali cibi di quei luoghi. «E adesso, socio, che si fa?» chiese Drago, scrutando l'aragosta nel piatto alla ricerca di pertugi accessibili e carnosi. E adesso non so, ma direi che dopo il bagno e il pranzo una siesta ci sta proprio bene. Non intendevo questo, disse Drago, colpendo il robusto carapace con la punta del coltello per saggiarne la resistenza. Una volta finite queste vacanzine e tornati nel mondo reale, che si fa? Che cosa vuoi fare? Ah, beh, pensavo che tu avessi un piano per questo. Non ce l'hai? Drago non rispose subito. Era riuscito ad infilare la punta del coltello in una fessura della corazza. Cercò di fare leva per allargare la fessura, ma improvvisamente l'impugnatura del coltello gli scivolò di mano e la ragosta piroettò in aria per poi riatterrare a pancia in su nel piatto. «Bah, i miei piani si fermano più o meno qui per ora. Tocca agli umani adesso fare il loro lavoro. Io vorrei vedere quello che è successo in altri posti assurdi come la Libia». Mirko ebbe un brivido. «Cosa vuoi dire? Vuoi ricominciare a fare il viandante per le strade del mondo per farti lapidare?» «Il mondo è nostro. Dopo tutte queste riunioni in universo visione, che cosa vuoi che ci succeda?» Il coltello di Drago aveva trovato la strada giusta per penetrare nelle difese del nemico ragosta. Facendo leva con la lama, riuscì ad avvicinarsi all'agognato pasto. «Perché tu invece che cosa vorresti fare?» Mirko lo guardò torvo. «Veramente non ne ho idea. Cioè, vorrei avere ancora amici invece di essere un dio fasullo, un arcangelo, un che cazzo so io. Questo sì che mi piacerebbe, andarmene in giro senza essere adorato e non sentirmi sempre così schifosamente solo». «Dunque, vediamo», disse Drago. «Ci sono ancora dei posti in cui la nostra bella trasmissione non è arrivata. Se ti va, possiamo trovare un po' di cosiddetta gente normale tra le tribù isolate dell'Africa nera e del Brasile, e mi sembra che anche in Nuova Guinea e in qualche sperduto villaggio all'interno della Cina. Ah sì, mi hanno detto che in Russia, nelle steppe della Siberia, mi pare, ci sono ancora diverse centinaia di persone, fra virgolette, normali, per la maggior parte nomadi. Il resto del mondo è praticamente goddato». Inforchettò la polpa rosa del crostaceo smembrato e in un sol boccone gustò finalmente il frutto delle sue fatiche. Mirko lo osservava con aria interrogativa. «Non hai idea di come siano efficienti gli informatori del buon vecchio Benny», disse Drago masticando. «A me non me ne frega un cazzo. Cosa credi, che io voglia vivere in Russia?» Mirko era diventato del colore della ragosta. «Tu hai il tuo posto, ti diverti, sai quello che fai, hai un ruolo nel mondo, anzi, questo è il tuo mondo». Udì l'eco delle parole di Diossido, il mondo matto. «Io invece non so più qual è il mio posto, questa storia è più grande di me». «Ehi, ehi, ehi, prenditi un anticollerico, vuoi? Prima o poi dovrai trovarlo il tuo posto», constatò Drago. «Puoi fare qualunque cosa vuoi, ti rendi conto? E fare in modo che non ti riconoscano non sarà un problema se ti organizzi un po'». «Tu la fai sempre facile». «Perché è facile se sai come fare. Che cosa vorresti?» «A parte tornare al più presto alle mie lezioni, vorrei convincermi che quello che abbiamo fatto ha un senso». «Motivo in più per tornare a fare i viandanti e dare un'occhiata». E con un sonoro rutto Drago chiuse il discorso, rendendo omaggio al pranzo e all'anima della ragosta. Mirko non disse niente per un po'. I tristi rossi resti della ragosta lo fissavano dal piatto. La sua espressione passò dall'incazzato al seccato al rassegnato al perplesso mentre fissava le chele immobili. Proprio mentre Drago iniziava a pensare che avrebbe dovuto fare a meno del suo socio, udì un suono gorgogliante. Dove andiamo? Drago ghignò guardando il mare. L'intenzione indica la direzione, disse, indicando la striscia scura dell'orizzonte. Un inferno vale l'altro. Prima della nostra cura, qual è il posto dove avresti avuto più paura ad andare? Mirko ci pensò su un attimo. Paura? Cazzo, ne ho tante di paure. Ho paura dei cani. Ho paura del treno che mi passa sopra quando cammino in un sottopassaggio. In mare ho paura degli squali da quando ho visto quel maledetto film di Spielberg. Ho paura a guidare in gallerie buie. Mi cago sotto sulle montagne russe. Ho paura dei burocrati. Ho paura dei ricevimenti troppo eleganti. Ho paura di perdermi nella zona sbagliata di una città sbagliata, magari di notte senza macchina, come nei Guerrieri della Notte. Te lo ricordi? Oh, figata di film. No, davvero. Ci sono mille cose che mi fanno paura. Queste erano solo le prime che mi sono venute in mente. Fondamentalmente mi spaventa essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Hai presente il mercato a Tripoli? Non era abbastanza terrificante? Ah, c'è di peggio. Pensa all'Afghanistan, al Congo, alla Somalia, all'Angola. L'Angola, rise Mirko. Ma da dove cazzo li tiri fuori certi posti? Ho fatto alcune ricerche, ce ne sono tanti. Mogadiscio, in Somalia, è al primo posto della classifica Inferni in Terra. È come essere in un videogioco dove l'unico obiettivo è sopravvivere evitando proiettili e mangiando topi. Poi naturalmente c'è il contorno di miseria, degrado, materiale e morale. Ce ne sono tanti di inferni sulla Terra, ma questo mi sembra, scusa la parolaccia, emblematico. Io pensavo che sarebbe stato più divertente essere un dio. Perché tu non hai fantasia. Stai continuando a guardare indietro invece che avanti. Dai, godiamoci un po' d'inferno in tutta sicurezza. Se tutto sarà come spero, allora il senza nome si prenderà una bella vacanza da dio. E Somalia sia, un inferno vale l'altro.